versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio cari ascoltatori, questo lunedì della seconda settimana di settembre, l'8 di settembre, sono le 15.36, 28 secondi, vado subito al punto della trasmissione. Grazie a quelli che ci scrivono, continuate per segnalarci temi, già sono uscite fuori 5-6 delle trasmissioni che vedrete nei prossimi giorni, l'indirizzo è tutto attaccato alla versione di Oscar @radio24.it. Mentre invece per telefonare oggi, ve lo ricordo, anche se molti di voi lo sanno a memoria, il numero è 800240024, 349-238-6666 per mandarci gli sms. Il punto di cui ci occupiamo oggi, sono passati questo qualche giorno dalle decisioni di Draghi e della BCE e tentiamo in una trasmissione di, come devo dire, divulgare, cercare di capire che cosa avete capito voi, cosa vi aspettate. Mi rendo conto che la materia, cioè la politica monetaria, le decisioni della BCE, sono questioni ostiche per molto, troppo tecniche, e del resto gli stessi osservatori qualificati, gli economisti con cattedra, i giornalisti specializzati litigano molto tra di loro, hanno opinioni molto diverse su che cosa davvero si debba aspettare. Una cosa è certa, i mercati hanno brindato, lo spread è ulteriormente sceso, a me pare che i mercati abbiano brindato fin troppo a dirvi la verità, e nel invitarvi a telefonare, vi aspettate davvero di pagare di meno qualcosa, di avere prestiti più facili alle banche, sia che siate un imprenditore o famiglia? Ecco, fateci capire questo. Noi tenteremo di spiegarvi che cosa vi dovete aspettare, non molto secondo me, ma io poi adesso vi presento l'ospite e vediamo, lui è molto più titolato di me, che cosa ne pensa. Vi dico in quattro parole perché io sono un po' scettico, cioè io penso che i mercati e tutta questa enfasi nel cercare sempre dei rimedi nuovi al posto dei vecchi che non pratichiamo di fronte alla crisi sia un po' eccessivo, per così dire. Ricordo che cosa ha deciso la BCE. La BCE ha deciso di abbassare ulteriormente il tasso fondamentale della politica monetaria, quello di rifinanziamento, che è sceso allo 0,5% allo 0,15%, ha abbassato 10 punti base anche il tasso di rideposito delle banche presso la banca centrale, che va da meno 0,10 a meno 20, quindi le banche, se lasciano i soldi lì, devono pagare la BCE per custodirli, questo dovrebbe essere un ulteriore incentivo a prestare. E poi, sorpresa sorpresa, rispetto a quello che era già stato annunciato prima dell'estate, cioè il grande programma di nuove liquidità per le banche a basso costo e bassa qualità del collaterale, però finalizzata, targettizzata a impieghi veri, cioè prestiti alle famiglie e alle banche, e c'è stata un'accelerazione invece di altre misure non convenzionali, cioè di questo acquisto da parte della BCE del ABS, le Asset Backed Securities, che le banche quindi potranno riversare alla BCE mettendoci dentro propri crediti al settore privato non finanziario, quindi prestiti alle imprese, prestiti alle famiglie, e poi acquisti di covered bonds, cioè obbligazioni, anche queste emesse dalle banche, con un collaterale fatto o dal settore immobiliare o da garanzia pubblica. Allora, questo non è un vero quello che si chiama il quantitative easing fatto da banche centrali come quella americana, come quella giapponese, come quella britannica, cioè non è l'acquisto diretto per ammontare molto elevati mensili sul mercato di titoli privati, ma anche pubblici, titoli del debito pubblico. Non è questo, è una specie di cosa molto intermedia, e immediatamente sono partiti infatti i dibattiti tra economisti e osservatori, ma questo è solo il primo passo, si arriverà all'acquisto di titoli, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io appartengo a una minoranza di quelli che dicono che i titoli di debito pubblico non si possono acquistare con lo strumento attuale della BCE. Se lo cambiano, vediamo, ma credo di no. Ma la cosa che mi lascia molto scettico, devo dirvi la verità, e ho finito e passo all'ospite, è credere che chissà quale effetto avrà questa manovra di acquisto delle asset backed securities. Certo, per un sistema bancario pieno di sofferenza e incagli come quello italiano, magari potrebbe servire ad alleviarne molto nel portafoglio delle banche, quindi a liberare capitale per gli impieghi, visto che tranne le due grandi banche Unicredit e Intesa, le altre faticano molto a smaltire l'eccesso di sofferenza con misura di mercato, cioè rivendendola, e quindi vediamo. Però l'effetto ai fini della ripresa della crescita dell'inflazione a me sembra molto secondario, anche perché il mercato totale europeo delle asset backed securities è più o meno un trilione di euro, quindi io non credo che saranno ammontati chissà quanto elevati complessivamente. Non ha niente a che vedere col quantitative easing. Tenete conto che il Giappone, o la Banca Centrale del Giappone, ogni mese fa interventi che, se pesiamo il PIL europeo e quello giapponese, sono pari a 140 miliardi di euro ogni mese di acquisti diretti di titoli. Niente di paragonabile. Oltretutto c'è un punto che io non capisco. Se noi diamo i soldi alle banche con questo meccanismo di aste a basso costo, bassissimo costo e bassa qualità del collaterale, dicendo prestate dalle imprese, e contemporaneamente facciamo partire un programma di riacquisto dei crediti che le imprese, le banche fanno alle imprese e alle famiglie, diventa un enorme gioco di giro. Cioè la BCE dà i soldi alle banche, le banche danno il credito, vedremo se lo fanno, ma se lo fanno danno il credito alle imprese e alle famiglie, rimpacchettano tutto in una grande ABS e la rigirano alla Banca Centrale Europea. Tutto il sistema del credito spiazzato. È una cosa positiva? Ma per quello che capisco io, ma comunque, per capirne di più e sentire un'opinione un po' fuori dal coro, torna con noi il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, che insegna strategia d'impresa alla SDA Bocconi. Buon pomeriggio e grazie, Carlo Alberto. Buon pomeriggio a voi, salve Oscar, ben ritrovato. Giudizio innanzitutto tuo sulle decisioni di Draghi della BCE tanto osannate. Due parti del giudizio, la prima sugli tassi di interessi, la seconda sulla grande operazione di acquisto di salsicce che chiamiamo ABS. La prima è interessante, è una bella notizia, però posso dire, Oscar, giocandoci un pochino sopra, è come se Draghi avesse invitato te e me dal barbiere dicendo facciamo un ritocchino, diciamo così, alla capigliatura, e poi così portava, che ne so, un rasoio quadrilama perché c'era ben poco da ritoccare. Insomma, ormai siamo arrivati al lower bound, come si dice, sia io che te, non c'è più molto da scavare. Peraltro è una buona notizia quando comunque la BCE taglia i tassi, vuol dire che le famiglie pagano un pochino di meno sui mutui. Ma la verità è che bisogna coniugare questa prima notizia. Aspetta, io già qua ti fermo per farti il proseguo di domanda, perché già arrivano dei barbieri che si scatenano. No, i nostri ascoltatori che dicono sì, ma scenderanno i 500 punti base in più che ci chiedono le banche per i soldi rispetto alla famiglia tedesca e all'impresa tedesca, oppure no? Poi ma rispondi, no, dopo. Ma no, di certo. Ecco, no, di certo. Ma è essenziale che è chiaro, poi spiegherai perché. Però la prima cosa positiva sui tassi, la seconda? La seconda è che qualche cosina di questa operazione qua consentirà alle famiglie italiane che hanno voglia di indebitarsi di comprarsi una macchina in più, non una casa, magari il computer nuovo, la TV nuova, a rimettere in moto, se le imprese della distribuzione dell'industria e le banche fanno un buon lavoro, di spingere sostanzialmente il credito al consumo e i consumi, oltre che sperabilmente spingere gli investimenti produttivi e il ripensamento della struttura industriale specialmente del Sud Europa, che ne ha bisogno. Quindi mi fa piacere dire che questa cosa qua è un'occasione importante per riaprire progetti di medio e lungo termine infrastrutturali di grande respiro. Certo, questo è il sogno, poi vediamo la realtà, e la realtà è quella che hai detto tu, un commissariamento de facto degli attivi bancari. Posso dire che Draghi ha preso Messina e Ghizzoni, li ha trasformati nei suoi country manager d'Italia, perché ha detto questo, sì, è più pesante. Amichevolmente, però siccome non prestati i soldi alle imprese, ve li do con una mano e ve li prendo con l'altra, sostanzialmente, no? Che è un po' quello che hai spiegato tu, cioè vi do il target LTRO a cifre, come dire, da svendita, ma pretendo, come dire, che mi impacchettiate questi impieghi in titoli derivati, coperti, garantiti, che poi vi ricompro. C'è un effetto però distorsivo, poi magari se ne parliamo. Alla fine, secondo me, tutto questo favorisce i nostri amici tedeschi, i quali si ritroveranno un posizionamento ancora migliore, perché se vorranno farlo, venderanno degli asset di alta qualità e aumenteranno le riserve. Noi invece avremo un problema, perché in questo momento non c'è un granché di spazio per allungare gli attivi bancari verso impieghi ad alto rischio, semmai era vero il contrario, stavamo andando verso una riduzione del rischio. Quindi bisogna vedere cosa succede. Io non mi aspetto che le banche italiane cambino atteggiamento, perché sono tra la tenaglia della asset quality review, quindi la revisione bancaria, del cambio di sorveglianza che scatterà a novembre, e quindi sotto la scure della sorveglianza BCE, e sotto la spinta invece sempre di Draghi, che dice no, prestate, prestate, prestate. Non lo so cosa succederà, anche perché non abbiamo ancora i termini precisi delle condizioni e della natura degli asset che verranno comprati. Sono annunciate, diciamo, per fine ottobre, neanche quantitativi. Io in assenza di una indicazione quantitativa che dia un'idea dell'ordine di grandezza di questa operazione sugli ABS, non capisco come in tanti scrivano sugli effetti, perché siccome sono operazioni non sterilizzate dal punto di vista della creazione della base monetaria, questo fa ripartire l'inflazione. Io, finché non vedo i numeri e non capisco come è fatta, sarò stupido io, ma non sono in grado di capirlo. Tu pensi che questa cosa serva anche a rilanciare l'inflazione? Soltanto verso l'estero, cioè soltanto se cambia, come dire, i prezzi relativi degli asset in euro rispetto al dollaro o ad altre monete, cosa discutibile, perché comunque sia ci sono altre spinte deflazioniste, per esempio il prezzo del petrolio che comunque continua a scendere, certo. E quindi non so nemmeno se, e peraltro l'idea certa che abbiamo è che Draghi vuole riportare il bilancio della BCE ai livelli del 2012, quindi sostanzialmente aggiungere un trilione. Peccato che nel frattempo, rispetto al 2012, sia la Fed che la Banca del Giappone, in particolare quest'ultima, ma anche la Bank of England, abbiano espanso molto di più rispetto al 2012. Il fatto che riportiamo la nostra banca al 2012 comunque non ci fa recuperare, fammi dire, quote mondiali del mercato della base monetaria, che è un concetto abbastanza complesso, ma sostanzialmente la BCE, se anche torna al 2012, nel frattempo le altre banche hanno fatto tanto di quel QE che noi non lo recuperiamo. Ma per quello oggi il mercato è stato prudente, perché ha letto la decisione di giovedì non come un anticipo della quantitative easing, ma come un invece del quantitative easing, perché secondo me, e io sottoscrivo la tua opinione, non succederà che la BCE compri i titoli di Stato europei, che è il vero QE, no? Non succederà nei prossimi anni, dobbiamo smontare la BCE prima che questo avvenga. Allora, la domanda alla cui risposta poi ti prego di dare, però dopo i 60 secondi di informazione stradale: in un mondo così traboccante di liquidità, ammettiamo che le banche italiane non diano soldi alle imprese, come se non vedessimo che c'è anche una bassa domanda da parte delle imprese, cioè le imprese, fino a che la crescita resta zero, i costi e le tasse restano altissimi e tutto quello che sappiamo, e le previsioni di crescita italiana restano flat, zero o poco più, ci può credere che il problema siano le banche. Però secondo me anche con questo meccanismo non è che le imprese sono veramente incoraggiate a investire, dico complessivamente, fino a che il quadro della crescita attesa, dei costi, delle tasse eccetera eccetera non muta in Italia. Questa osservazione secondo te è fondata, nel qual caso non bisogna aspettarsi un granché, oppure è sbagliata, c'è davvero un problema del credito da risolvere e la BCE può aiutare a risolvere? La risposta dopo i 60 secondi però di informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta 16:50 primi. Stiamo tentando di banalizzare un po' le decisioni della BCE, tentare di far capire a voi che cosa aspettarci e che cosa non aspettarci. Ognuno di voi poi naturalmente avrà un'opinione oramai formata, diciamo che quella degli economisti e degli osservatori è molto dispersa, in una forbice che dice troppo poco, ma no, è decisivo, queste sì che sono le decisioni mentre la politica non le assume, e questo un po' è vero, perché Draghi dal 2012 in poi ha fatto un po' la differenza, anzi alcuni dicono, io pure un po' tra quelli, dicono che continua a prestare tempo che poi la politica non utilizza per fare interventi seri. Detto tutto questo, abbiamo fatto una domanda al nostro ospite, il professor Carlo Alberto Cannavale Maffè, che è relativa, ma il problema è di liquidità nelle banche che non danno prestiti, oppure il problema è quello dell'orizzonte appiattito che non spinge l'industria italiana a investire? La sua risposta, ma prima sentiamo rapidissimamente alcuni di voi. Cominciamo con Adriano da Roma. Prego Adriano. Buonasera a tutti. Sì. Io volevo raccontare un attimo la mia odissea. Io ho aperto un'azienda SRL semplificata, sì, quella che era per i giovani, che poi è stata, esatto, praticamente l'ho aperta ad ottobre, siamo praticamente adesso a settembre, a ottobre dell'anno scorso, siamo a settembre del 2014, ancora non riesco ad avere dalla banca un fido di 5.000 euro nella carta di credito. Attenzione, una banca che conosco, dove ho il conto. Motivo addotto dalla banca? Niente, mi hanno chiesto di tutto, di più. Quindi, aspetta, Adriano, sinteticamente lei dice, con un caso concreto, c'è un problema in realtà da parte delle banche. Sentiamo... C'è un problema su cifre irrisorie. Perfetto, grazie. Sentiamo Giorgio da Vicenza. Prego, Giorgio. Sì, buongiorno, chiamo da Vicenza, sono sì. Giorgio. Si parlava di prestiti, si parlava di mutui, no? Allora, secondo me il problema è che le banche hanno bisogno di una garanzia dietro a questo. Non si può pretendere che le banche si espongano certo. a elargire dei soldi gratuitamente o comunque con quella minima certezza che può essere un lavoro a tempo determinato o quant'altro. Oggi il lavoro si perde. Ma non lo dico io. No, dicono i numeri, no, ci mancherebbe, certo. Ecco, quindi non è la banca elargisce in virtù del fatto che può ritornare il prestito attraverso quel sistema, quel piano di ammortamento, no, di dietro. Quindi lei dice per le famiglie il problema resta perché la perdita di reddito è tale in questi anni accumulati, ovviamente siamo almeno 14% rispetto al 2008, una volta che lo depuriamo la componente nominale, e per cui il problema resta. Sentiamo il professor Carlo Alberto Granale Maffè che ci dice. Che i secchielli di Draghi non bastano per far bere i cavalli delle imprese che hanno poca sete, a meno che i consumatori, sotto forma di fantini, facciano correre il cavallo, mettendo quelli che possono, come dire, e i consumatori non necessariamente sono quelli italiani. Quindi dico una cosa molto semplice, che queste linee di credito andranno molto bene per le aziende che esportano e che hanno come target i mercati mondiali, e ce n'è tanti in Italia, del manifatturiero, ma anche del food, ma anche dei servizi, perché poi tutta l'ospitalità e il turismo è in realtà un bel pezzo di esportazione di servizi. Tant'è vero che stanno già girando proprio oggi, c'è Unicredit, ma anche MPS Intesa, che vogliono muoversi nell'ottica di costruzione di un grande polo alberghiero, proprio sfruttando questa modalità. Quindi vedo possibilità che tornino gli impieghi sul fronte delle grandi operazioni, di grandi anche medie, per carità, operazioni di supporto all'esportazione. Molto più difficile che le imprese italiane che vendono in Italia chiedano quei soldi. Non lo fanno perché quel cavallo non ha sete in quanto vede davanti un tasso di consumo basso. Per cui c'è da sperare che invece quei fondi finiscano a finanziare spesa delle famiglie, quindi finiscono sostanzialmente a credito al consumo, magari di beni durevoli ovviamente, quindi magari meno a carta di credito ma più al credito al consumo di beni semidurevoli. Questo è invece auspicabile. Certo, non esiste che le banche regalino soldi, i consumatori dovranno garantire una trasparenza, un livello di informazione, di riduzione della simmetria informativa tale per cui le banche imparino a fidarsi. Purtroppo gli italiani non hanno un track record in questo senso perché ha l'abitudine di usare le carte di credito. Se fosse più estesa, caro Oscar, anche la banca avrebbe molta più base informativa per tracciare il rischio di credito. Invece no, noi italiani siamo 45 minuti di coda davanti al casello autostradale pur di non pagare con la carta di credito. Noi italiani ci negoziamo con l'esercente dello sconticino al 5% pur di non pagare con la carta. Queste operazioni ovviamente producono opportunismo e quindi un po' è anche colpa delle famiglie italiane. Ciò detto, è evidente che se non parte la domanda interna, da solo questo modello non esce. Senti, ne usciranno le imprese che esportano o le famiglie che hanno prospettive di reddito stabile, per esempio tutti gli statali, e che vogliono comprare beni semidurevoli a credito. Senti, parliamo un secondo dei problemi, diciamo, di responsabilità bancaria, perché è ovvio che in anni in cui il tasso di interesse diventa praticamente negativo, e scende il margine di intermediazione su cui, diciamo, il modello standard della vecchia banca commerciale, raccolta a breve, impieghi a breve, faceva un bel po' di soldini e dei margini. In tutto questo, nel frattempo che scendeva questa attività ordinaria di creazione di margini delle banche italiane, le banche italiane sono con la coscienza a posto per la riduzione dei costi eccessivi che avevano, cioè troppe sedi, quindi troppi mattoni, tanti dipendenti, ma non diciamo che vanno licenziati, ma anche manager pagati in una maniera assolutamente elevata rispetto a bilanci con perdite miliardarie accumulate. Tu che dici? L'hanno fatto il loro dovere per riduzione dei costi? Non l'hanno fatto, non tutte, alcune l'hanno fatto bene, infatti sono quelle che crescono, sono quelle che crescono, sono quelle che emettono nuovi modelli organizzativi, guarda caso facendo meno delle zavorre di costo e di struttura che hai citato prima. Non l'hanno fatto bene perché ovviamente erano giustificate dal grasso che colava dal margine di intermediazione. Oggi quel grasso non c'è più e non ci sarà più, esatto, perché i tassi qui bassi sono inchiodati per un tempo, come dire, sufficientemente lungo, ecco, devono guadagnare le commissioni, ma commissioni vuol dire servizi, non, come dire, estrazione di rendite da posizione di monopolio. Servizi. Allora, detto tutto questo, mi pare che noi non siamo iperottimisti, siamo realisti, tentiamo di non spiegare che hanno preso la decisione finale. Avete capito che se siete garantiti avrete qualche soldino in più, se non siete garantiti per voi non cambia nulla. Continuate su Radio 24, appuntamento come a domani.